sorprese, gioie e speme ormai recise per le nostre vite. Passato c'è dolore non celato, no, non c'è cognizione in questa condizione. Nessuno sa se sia la vita caso una necessità, e sia qui siamo una coscienza, lo siamo con intraprendenza, spesso per trovar sotterfugi e privilegi. Una luce, un'altra sorte, un impulso più adeguato. Che non sia sola morte. Ecco perché brindo alla vita frammista quotidianità, a meschinità e a contraddizioni, a umane recriminazioni, che confonde poi l'amicizia con la mafia. Ecco perché canto alla vita, a un'idea di umiltà, visione della trasparenza dell'anima unita scienza, di una mente tesa verso l'individuazione. Ecco perché etica vita, oltre il tempo e le spazialità, una volontà, un'ambizione di fede, di illuminazione, di poter scrutare l'universo e il supremo.